Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 8 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria: bene le borse, anche se non sui massimi in questo momento, dopo le ipotesi circolate con forza che Francia e Germania sarebbero d'accordo nell'aumentare ulteriormente la dotazione del fondo salva stati europeo, fondo che serve per salvare la Grecia, ma non solo, serve come rete di protezione anche per gli altri paesi giudicati più o meno a rischio, tra cui Italia e Spagna. Ebbene, 2.000 miliardi di euro, questo dovrebbe essere il nuovo ammontare, la nuova dotazione, stando alle indiscrezioni, che Francia e Germania, sempre più alla guida di questa Europa o di questo euro, perché insomma mi sembra che i giochi si facciano nel bene e nel male sempre di più tra Berlino e Parigi, ne avrebbero deciso. E l'implementazione, il rafforzamento di questo fondo ha spinto le borse e soprattutto i titoli bancari, perché è chiaro che se è un fondo che va a salvare o a sanare i debiti di alcuni stati europei, le banche sono piene di obbligazioni di questi stati ed è chiaro che si va a comprare banche. Nel caso specifico a casa nostra, Intesa San Paolo più 7,23%, Unicredit più 4,90%. Qui pesa in maniera favorevole anche il fatto che ieri Standard & Poor's non abbia declassato queste due banche, invece ha declassato altre banche italiane. L'Automatica più 5,1%, Ansaldo più 2,80%, Terna più 1,80%, Mediobanca più 1,70%, come Snam, Rete Gas e Campari un punto e mezzo lo guadagna Enel, ma anche Eni. Infine il Banco Popolare più 1,34%. Di negativo c'è Pirelli, meno 2,80, Fiat meno 2,20 come Steam Microelectronics, l'1,5 di calo è quello della Popolare della Emilia Romagna, l'1,40 quello di Parmalat, lo 0,80 quello di Finmeccanica e di Fiat Industrial. Infine Prismian perde lo 0,70%. Le altre borse sono positive ma non quanto Milano: Parigi più 0,30, Francoforte più 0,40, Londra più 0,70, l'America più 0,30% in questo momento. 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Di cosa ci occuperemo? Beh, chiaramente dell'Europa, ma anche nella seconda ora del programma della Grecia. Il nostro GR vi ha già raccontato purtroppo anche scontri ad Atene, due giorni di sciopero indetti dai sindacati, della vicenda Unicredit, le indagini anche della magistratura, e poi, se riusciamo a tenere dentro tutto, anche le anticipazioni che stanno uscendo sul disegno di legge sviluppo, quello che dovrebbe rilanciare l'economia. Ieri Berlusconi ha chiarito che non ci sono soldi, ci inventeremo qualcosa, ha detto ieri il Presidente del Consiglio. Stanno uscendo alcune indiscrezioni, bozze varie che circolano, invito alla cautela perché poi queste bozze spesso vengono modificate. Comunque cercheremo di raccontare anche queste. E innanzitutto però le notizie in breve. Al di là dei temi europei, l'oro è salito a $1,660, il petrolio in rialzo a $88,7 e poi una notizia di un'ora fa: hanno proclamato i benzinai italiani 15 giorni di sciopero, 15 giorni di sciopero contro il governo. Questa è pazzesca perché insomma da sempre diciamo che bisogna liberalizzare di più, lo chiede la Confindustria, lo chiede la Confcommercio, la Confartigianato, lo chiedono le banche, perfino le banche, che quella è una riforma possibile a costo zero, cioè eliminare la burocrazia da un lato, ridurre la burocrazia che costa miliardi alle imprese e alle società, e aumentare la liberalizzazione, quindi la concorrenza, che ha un vantaggio perché i servizi poi sono più efficienti di solito e a minor prezzo. Sono riforme a costo zero. Beh, Pensate che i benzinai scioperano non contro la liberalizzazione, ma contro il governo che si rifiuta di liberalizzare il settore. E poi che cancella il bonus che riconosceva il ruolo di sostituto d'imposta ricoperto dalla categoria. Della Grecia parliamo, tra l'altro oggi è anche il giorno dell'addio di Trichet alla Banca Centrale Europea, poi il 1° novembre arriverà Mario Draghi, anche qualche protesta, alcune decine di manifestanti con striscioni inneggianti al game over della finanza mentre iniziavano le celebrazioni su questo, sull'eredità di Trichet, del declassamento della Spagna vi hanno già raccontato i nostri GR, mentre di nuovo le banche americane vivono in un altro mondo, le banche d'affari. Morgan Stanley infatti ha chiuso, nonostante la crisi, il rischio recessione, l'economia che non riparte, i disoccupati che non diminuiscono in America, Morgan Stanley ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto in rialzo a 2 miliardi e 200 milioni di dollari e si deve in buona parte ai benefici contabili per 3 miliardi e 4. Comunque bene anche un'altra banca d'affari americana. Attenzione, perché se non mettiamo mano alle banche, ai guadagni delle banche d'affari, è difficile poi placare anche la protesta a Wall Street piuttosto che in altre parti del paese, lo diciamo da 2 anni. E ci arriva in aiuto Credit Suisse First Boston, cioè un rapporto di Credit Suisse di cui poi parleremo anche nella seconda ora, l'abbiamo volutamente messo vicino alle proteste che ci sono in Grecia. Che cosa ha scoperto Credit Suisse nel suo rapporto annuale sulla ricchezza, sui ricchi? Allora, meno dell'1% della popolazione mondiale detiene a questo punto il 38,5% della ricchezza globale. E fin qui, voglio dire, siamo ancora nel tema delle disparità, delle diseguaglianze. Praticamente ci sono quasi 29 milioni di persone che hanno patrimoni superiori a $1 milione, che è considerata come patrimonio una cifra, diciamo, importante da ricchi. La cosa ancora più strana però non è questa, è un'altra. L'Europa, proprio l'Europa, con tutte le difficoltà che ha attraversato nell'ultimo anno, con i debiti di Spagna, Italia, Irlanda, Portogallo, Grecia sotto attacco, l'economia che si ferma e non riparte, bene, l'Europa ha superato nell'ultimo anno gli Stati Uniti come numero di milionari. E questa è veramente una cosa che lascia così perplessi. Il 37% dei milionari al mondo viene dall'Europa, il 37% dagli Stati Uniti. In Cina sono praticamente gli ultra ricchi, sono 5.400, però quelli con più di 50 milioni di euro, di dollari di patrimonio. In America, pensate, sono 35.000, cioè 7 volte quelli cinesi. Mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Eh sì, è un mondo difficile, ma insomma è un mondo anche strano, eh? Che l'Europa sorpassi gli Stati Uniti in quest'anno per numero di milionari la dice lunga non solo sulla difficoltà economica, ma anche sulla disuguaglianza sociale che si sta realizzando in Europa come in altri paesi. Attenzione al rapporto Caritas di 2 giorni fa. Andiamo all'Italia, la pressione, teniamo carotone, dai. La pressione sul nostro debito si vede anche sugli spread che continuano a salire oggi. La differenza tra quanto costa noi indebitarci e quanto costa invece alla Germania è aumentata ulteriormente al 388 punti. Ripeto, siamo ai livelli precedenti la manovra finanziaria, come se il mercato avesse già, tra virgolette, bruciato i vantaggi che dovrebbero arrivare dalla manovra finanziaria. Tant'è che il rendimento dei BTP a 10 anni è salito al 5,94%. Per cento, l'appello del capo dello Stato Napolitano: ognuno faccia la sua parte, a partire, quindi per primo, il governo. Le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti. Se è vero che è trascorso un mese dall'approvazione in Parlamento del decreto di stabilizzazione finanziaria varato alla vigilia di Ferragosto. E a queste difficoltà guarda con preoccupazione l'Europa, in attesa dell'attuazione e di ogni necessaria integrazione delle decisioni già adottate e di impellenti scelte di riforma strutturale e di stimolo alla crescita. È un momento in cui si richiede una forte, netta assunzione di responsabilità, largamente condivisa, aggiungo, perché risulti più credibile, più garantita nella sua efficacia realizzativa. Non posso perciò tacere la mia angustia nel constatare che le condizioni politiche per questa più larga condivisione non si sono finora verificate. E gli dà ragione il Presidente del Consiglio, dice: l'appello alla coesione del Presidente Napolitano sembra lontano da realizzarsi, sono i fatti a dimostrarlo. Il futuro è incerto. E si sposta la data in cui il Governo presenterà il decreto sviluppo, doveva essere domani, domani da quello che oggi Berlusconi ha detto arriverà invece il nome indicato dal Presidente del Consiglio di chi dovrà prendere il posto di Mario Draghi alla Banca d'Italia. Non arriverà il decreto sviluppo, ci sono problemi, ha detto di nuovo oggi Berlusconi, non c'è la possibilità di fondi importanti, ci sono problemi da risolvere e poi ha aggiunto, non credo, riferito a se stesso immagino, che l'imprenditore più capace degli ultimi decenni sia improvvisamente incapace di decidere, spero di poter annunciare qualcosa in settimana. Concerto e calma, sonata di vento. E poi la bozza che sta circolando, ne parleremo nella seconda ora, ma insomma un riscatto degli immobili, un processo quindi di dismissione degli immobili degli enti previdenziali e la possibilità per chi ha diritto di riscattare entro il 31 marzo 2012, deduzione IRES per le nuove infrastrutture e una parte del gettito IVA, il 25% del gettito IVA per le nuove opere andrebbe ai costruttori, una polizza per la casa anticalamità, c'è di tutto, una garanzia di Stato per i mutui alle coppie precarie e i certificati online anche per la malattia del figlio. E poi l'anticipo della pensione per i professori universitari, questa non la capisco perché diciamo sempre che bisogna alzare l'età pensionabile, da 70 anni si andrebbe a 68. Poi ci sono anche cose diciamo, fondamentali per il paese, per esempio lo smaltimento delle siringhe con botulino, non sto scherzando, con botulino usate per gonfiare le labbra, gli aghi da piercing o la mette per depilazione, sempre quelli usati chiaramente, si potranno trasportare in proprio sulla propria auto fino a un massimo di 30 kg al giorno. Ora io se becco uno che ha 30 kg di rasoi e la mette per depilarsi in auto, non so, secondo me lo devi fermare e basta, ma non sto scherzando, è tutto vero, per cui si potranno portare fino a un massimo di 30 kg al giorno fino all'impianto di smaltimento, lamette per depilazione, aghi da piercing, siringhe con botulino e basta che siano usati, tendenzialmente uno prima li usa e poi li butta e non viceversa, riguarda estetisti, acconciatori, truccatori, tatuatori, chi fa piercing, agopunturisti, podologhi, callisti, manicure e pedicure. Dalle pedicure al fondo salvastati, Pindaro ci traccia la strada. 349-238-6666 per i vostri sms. Per favore, non facciamo commenti su questo. Cioè, c'è anche questa misura dentro il decreto sviluppo sullo smaltimento di queste cose, no? Ecco, non penso che da lì poi arrivi la crescita economica, però. E poi sono curioso di vedere chi gira con 20 kg di lamette. Andiamo avanti invece, il fondo salvastati. Allora, La notizia più forte mi sembra un'indiscrezione oggi, e quindi l'attesa per il vertice che vi sarà domenica prossima, il vertice europeo. Quanto riferiscono alcune fonti diplomatiche, vengono citate oggi soprattutto dal Guardian, quindi il giornale britannico. Queste fonti sostengono che Parigi e Berlino avrebbero già raggiunto un accordo per rafforzare il fondo di salvataggio degli stati europei, IFSF, e dagli attuali 440 milioni si salirebbe a 2.000 miliardi di euro. D'accordo quindi i due paesi, con un cambiamento di rotta da parte soprattutto della Germania. Allora c'è in collegamento il corrispondente di Radio Colle sulle 24 ore da Bruxelles, Antonio Poglio Salimbeni. Antonio, buonasera. Buonasera a voi. Improvvisamente i tedeschi vogliono di più, vogliono salvarci di più. Che succede? Che la Germania avesse cambiato rotta, quantomeno accelerato sul programma politico prefissato qualche mese fa, è un fatto indubbio. Per la verità i problemi maggiori in questa fase ce l'hanno i francesi. La Francia teme di perdere la tripla A, di essere declassata, e se fosse declassata dall'agenzia di rating, tutta l'impalcatura per salvare del fondo salvastati andrebbe un po' a pallino, perché si fonda appunto sul fatto che sei paesi dell'eurozona hanno la tripla A. Scusa, ma una domanda, io so, sai che sono un po' malizioso ogni tanto, ma questa improvvisa accelerazione tedesca, che prima non voleva, era in dubbio la Germania, non si sapeva se la Germania avrebbe votato o no addirittura il primo fondo, quello da 440 miliardi, no? Adesso improvvisamente sembra che vogliono portarlo a 2.000 euro. Ci sono due possibilità: o i tedeschi hanno riscoperto notte tempore una vena così di solidarietà verso i paesi del Mediterraneo, oppure qui il problema delle banche esposte verso la Grecia, esposte verso l'Italia, la Spagna, e comunque con dentro robaccia ce l'hanno anche e soprattutto le banche tedesche. Beh, questo naturalmente è vero. Direi che sono stati due gli elementi che hanno fatto compiere ai tedeschi un'accelerata. Il primo è il fatto che il programma greco di consolidamento del bilancio pubblico è molto più faticoso di quanto si presumesse. Il debito pubblico è aumentato, l'accordo con le banche internazionali di un haircut, cioè di un taglio del valore nominale per i debiti, per i titoli pubblici ellenici in scadenza da convertire con altri titoli pubblici a lunga scadenza, non basta più, il 2% è troppo basso. Da una parte, dall'altra parte l'allargarsi a macchia d'olio del contagio che ha coinvolto Spagna ma ancor più Italia, e adesso il rischio del declassamento della Francia, che se avverrà non avverrà domani mattina, può arrivare nel giro di 3-6 mesi, voglio dire. Questa accelerazione è stata imposta dagli eventi, cioè non c'è più spazio per tentennare. Tant'è che proprio oggi, da quello che riporta Le Figaro, presidente francese Sarkozy incontrerà nel pomeriggio, tardo pomeriggio, Angela Merkel, quindi quasi anticipare poi il vertice di domenica. Devo dare una risposta a chi dice: attenzione alla norma del governo sulle lamette, le siringhe col botulino e gli aghi da piercing. Sono cose importanti perché determinano come vai a smaltire e riciclare questi prodotti. Sappiamo tutti cos'è il Sistri. L'ironia non la facevamo sulle categorie, non facciamo mai ironia su nessun lavoratore in questo programma, né alcun lavoro. L'ironia è che nelle bozze che stanno uscendo, battute le agenzie, passi da il gettito IVA del 25% a 9 costruttori, poi ti escono anche le cose sulle lamette, sugli aghi. Tutto qua, questa era l'ironia. Forse se fosse uscito un testo unico, poi ognuno va a vedere quello che gli interessa di più, senza far trapelare notizie che poi magari non vengono nemmeno confermate. Torniamo all'Europa. Barroso, presidente della Commissione europea, proprio sul vertice, sulle risposte vigorose necessarie, ma anche su un rodaggio di queste decisioni che sarà doloroso. Ci troviamo in un momento cruciale, un momento che può essere decisivo non solo per l'euro, ma per il futuro dell'Europa. Non voglio drammatizzare, ma voglio mettere tutti davanti alle loro responsabilità. Siamo in un momento estremamente decisivo e le decisioni che saranno prese o non prese nel vertice di domenica prossima avranno senza dubbio un impatto sulla crisi. Abbiamo detto in modo chiaro che siamo in un momento cruciale che esige delle risposte chiare, determinate e complessive. In concreto, non posso anticipare quale sarà il risultato del vertice europeo. Posso dirvi che sto lavorando perché sia un successo. Un punto però voglio sottolineare chiaramente. Anche se arrivassimo a una decisione politica sui temi in agenda, ed è ciò che spero, non significa che non dovremo affrontare una fase di rodaggio difficile per la loro realizzazione. Dobbiamo essere chiari, non possiamo pensare che le decisioni di domenica siano la fine dei nostri dolori. Donc là il faut être aussi clair. On ne peut pas espérer que ce soit le bout de nos peines. Allora, Antonio Pollo, stai bene, tu poi ci devi lasciare, però due cose rapidissime vorrei capirle. A, questi 2000 miliardi, addirittura ipotizzati, chi li tira fuori? Tu? B, da questo punto di vista, a chi serviranno? Il fondo salva stati, no. Questa è l'idea, dovrebbe garantire parzialmente le emissioni di bond di titoli pubblici emessi nell'Eurozona. Si parla di una copertura del 20%. Questo produrrebbe quello che si chiama un effetto leva, diciamo da 1 a 5, per cui quella garanzia potrebbe aumentare in realtà la portata dell'intervento del Fondo Salva Stati a moltiplicata per 5. Questo senza tirar fuori soldi. L'FSF peraltro lavora su garanzie, non lavora su capitale versato dai paesi, senza l'emissione di nuove garanzie. In questo modo l'acquisto dei titoli, gli investitori in titoli pubblici sarebbero più invogliati, avrebbero un margine di incertezza superiore in caso di diminuzione del valore del debito in cui sono espressi del debito del paese che ha emesso i titoli da loro acquistati o protetti dal rischio fallimento. In questo caso sarebbe un alleggerimento della tensione sul mercato del debito spagnolo e italiano. Eccoci, i paesi che sono interessati a questa operazione sono in generale tutti, ma in particolare Spagna e Italia. Sì, anche perché se no non si capisce perché una cifra così monstra, cioè 2000 miliardi non ti servono per la Grecia, che vale, il cui PIL vale diciamo quello di una regione del nord italiana, non ti servono neanche per il Portogallo che si è rimesso in carreggiata, esatto, ti servono per i due colossi diciamo in questo momento in pericolo, cioè Spagna e Italia. Tu hai ben spiegato che in realtà poi funziona come una garanzia, no? Sui prestiti, cioè quando uno Stato emette un'obbligazione, chiede un prestito sul mercato, è chiaro che un prestito più garanzie ha, come sanno tutti quelli che vanno in banca, più garanzie può dare, più è solido. Allora questo fondo funzionerebbe a diciamo garanzia di una quota del prestito e quindi delle obbligazioni che uno Stato ha emesso e anche del suo debito. Ringrazio Antonio Pollio Sanimbeni, corrispondente di Radio Corriere sulle 24 da Bruxelles. Sentiamo sempre sul fondo Salva Stati europeo quello che ha fatto crescere le borse e soprattutto i titoli bancari in borsa, il commissario degli affari economico monetari europei Olli Rehn. We are currently preparing a comprehensive package. Attualmente stiamo preparando un pacchetto di misure per superare la crisi del debito, per ristabilire la fiducia, per rafforzare le prospettive di crescita economica e per favorire la creazione di posti di lavoro in Europa. Sappiamo che occorre una risposta da parte di tutti e che c'è la necessità di un'azione simultanea su diversi fronti. È cruciale inserire la nostra risposta alla crisi nella cornice di misure di lungo termine per favorire una crescita economica sostenibile. Riguardo il Fondo Salva Stati, i lavori sono in corso. Stiamo lavorando per perfezionare sia l'aspetto di flessibilità che l'efficienza del fondo. Sono fiducioso e speriamo di avere i risultati del nostro lavoro pronti per l'Eurogruppo, l'Ecofin e il vertice UE di fine settimana. Al momento i lavori sono in corso. E poi, sempre sul tema del salvataggio ipotetico di Italia e Spagna, oggi il governatore della Banca Centrale Francese, Christian Noyer, ha detto: possiamo escludere qualsiasi fallimento dell'Italia, della Spagna, dell'Irlanda e del Portogallo. Gufo scaramantico, no, dai. No, non ce la tiriamo addosso. La cosa interessante è che non ha citato la Grecia. Ripeto, è il governatore della Banca di Francia, non uno che passava per caso. Ha detto: possiamo escludere qualsiasi default, quindi fallimento dell'Italia, della Spagna, dell'Irlanda e del Portogallo. E però no, mi sa che il gufo riparte, perché poi è arrivato anche il nostro ministro dell'economia Giulio Tremonti, che ha detto: l'idea delle obbligazioni europee è giusta e si sta facendo strada, perché all'opposto sta arrivando una dimensione della crisi che può essere catastrofica. Era tanto che non davamo il gufo a Tremonti, però come si fa a non darglielo così? Allora, intanto le borse hanno chiuso bene. Milano la migliore, più 2%, Francoforte mezzo punto di rialzo, Parigi pure, Londra lo 0,55%, l'America più 0,40%, euro a quota 1,38%, i titoli più in evidenza si chiamano Intesa San Paolo più 7,32% e Unicredit più 5,20%, ma anche l'Automatica più 5,40%. Ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms. Già 7:41 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Passiamo adesso alla borsa, dopo aver ragionato sulla disponibilità tedesca e francese ad aumentare la disponibilità del fondo salva stati fino a 2.000 miliardi, che è quello che ha poi fatto crescere oggi soprattutto i titoli bancari. Devo dire che si è beccato il gufo poco fa Tremonti per aver detto senza Eurobond, una frase veramente, il gufo lo diamo in maniera scaramantica, Tremonti ha detto senza delle obbligazioni di stampo europeo può diventare la situazione, la crisi può diventare catastrofica. Cavolo, catastrofica insomma, no, siamo appena a metà settimana. E però devo dire che Van Rompuy, il presidente dell'Unione Europea, non è da meno, perché nella lettera che ha scritto ai leader europei per invitarli all'incontro di domenica a Bruxelles, c'è scritto, le agenzie la stanno battendo adesso, c'è scritto: la situazione economica peggiora, grazie, l'abbiamo capito anche noi, anche a causa della crisi dei debiti in alcuni paesi che sta avendo un impatto sulle banche, e per questo occorre prendere misure decise. Quindi la situazione peggiora, ma perché si stanno muovendo Francia e Germania in maniera così veloce, improvvisamente, dopo un anno di resistenza a salvare la Grecia? C'è in questa frase: sta avendo un impatto anche sulle banche, e siccome le banche tedesche e francesi non sono messe meglio di quelle italiane, anzi sono più esposte sui bond greci, sulla Spagna e sull'Italia, toccherà salvare la Grecia per salvare le banche tedesche e francesi. Mo' mi taccio e andiamo in borsa. Come sempre con Radio Cori sulle 24 ore, ciao Condila, buonasera. Buonasera a voi. Dopo tutta questa premessa e l'approfondimento con Poglio Salimbeni, è chiaro che oggi le banche sono cresciute, no? Sì, sono andate molto bene su tutti i listini europei. A Milano, per esempio, Intesa e Unicredit hanno volato, Intesa ha guadagnato il 7,3%. Unicredito il 5,2%, sia per il rafforzamento del fondo, l'ipotesi, come dicevi tu, del rafforzamento del fondo salva stati, sia per alcune ricoperture che sono scattate. Questi titoli avevano perso molto terreno, soprattutto lunedì. Eh sì, e poi appunto questo fondo che servirà a garantire i debiti degli stati, quindi garantisce soprattutto le banche, scusatemi se insisto, che hanno comprato questi debiti attraverso le obbligazioni. C'è qua il collega Moria Longo del Sole 24 Ore. Moria, buonasera. Buonasera a tutti. Tu sei qui per parlare di un'altra cosa, di Unicredit, però insomma conosci bene il mondo obbligazionario e il mondo bancario. Andiamo avanti, oltre ai bancari... Beh, quanto ha pesato Standard & Poor's di ieri, però? Perché Intesa e Unicredit non hanno avuto un abbassamento del voto, invece altre banche sì. Sì, ma anche, 24. Qua, ma anche qua, ad esempio, il Banco Popolare ha guadagnato il 2,8%, UbiBank comunque ha guadagnato l'1,49%, diciamo che insomma, quando gli operatori decidono poi di rastrare i titoli bancari, poi lo fanno senza guardare poi a, insomma, ad altre variabili. C'è da dire, la Banca Popolare Emilia Romagna, meno 1,1%, conferma il suo trend negativo da quando è entrata nel FTSE MIB. Allora, ancora Terna guadagna assieme a tutti gli energetici, devo dire oggi, perché Terna guadagna l'1,70, Eni l'1,70 anch'essa, Enel l'1,60%. Terna ieri aveva perso parecchio terreno quando, soprattutto dopo che il suo numero uno Flavio Cattaneo aveva diciamo avanzato l'ipotesi che un inasprimento eventuale della Robin Tax potesse incidere sulla distribuzione dei dividendi. Terna è un classico titolo da cassettista, insomma la cedola è molto importante per chi ha acquistato questo titolo. Oggi sono tornati gli acquisti, insomma, insieme, come dicevi tu, a tutte le altre utility. C'è un ascoltatore che vuole sapere se il titolo Banca Popolare Emilia Romagna sta per vincere i prossimi mondiali di discesa libera. Non la trovo male come battuta, in effetti continua a calare. Che succede sulla Pop Emilia Romagna? Ma qui gli operatori suggeriscono il fatto che sia stata acquistata molto sulla prospettiva dell'ingresso nel FTSE MIB, e poi sia stata molto venduta, decisamente molto. C'è una grande analisi da parte di un'analisi tecnica, un'analisi sui fondamentali. Siccome compra prima che entra, vendila quando, una volta che è entrata, fare così. Vabbè, Pirelli meno 3,17, Fiat meno 2,50%. Sentiremo poi le dichiarazioni anche di Marchionne. Facciamo così, dopo il traffico. Che ha detto, ma insomma, in Italia vendiamo qualcosa come 700.000 modelli in meno perché non c'è mercato, insomma, questa non è che porti bene poi al titolo in generale. 349-238-6666 per i vostri sms. Traffico. ...17:47, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Fiat... sentiamo Marchionne prima e poi il commento di CEO Condina. Confermati gli obiettivi 2012 per il gruppo, oggi ha presentato le nuove Tema e Voyager, e anche con la conferma dello sbarco dell'Alfa Romeo negli Stati Uniti nel 2013. Prima di tutto non vedo Fiat senza Chrysler perché non la conosco, quella Fiat senza Chrysler, è inutile che mi chieda di dividermi in due, non lo faccio, e quindi non so che il futuro è buono. Per il gruppo è buono, non credo che dobbiamo spostare i numeri per il 2012, ma li stiamo analizzando adesso. La cosa importante, quello che faremo per il 2011, saremo in linea con le aspettative. Verrà lanciata nel 2013 in America, sarà il punto di rilancio della Alfa Romeo, ma partiremo da lì e ritorneremo in Europa. Copriremo tutta la gamma fino al segmento A. E poi A. E il fatto che non sia oggetto di discussione l'eventuale cessione di Case New Holland, CNH, del gruppo Fiat. Il titolo, ciao. Il titolo, Fiat SPA, insomma l'auto, meno 2,5%, Fiat Industria invece molto meglio, meno 0,34%, diciamo che si sottolineano tra gli operatori di borsa due fattori che hanno spinto a ribasso il titolo. Innanzitutto l'andamento dello stocks di settore europeo, meno 1,2%, questo sicuramente ha pesato, e poi c'è stata la recente decisione difficile di tagliare il rating di Fiat a BB con outlook negativo, questo sicuramente insomma è un fattore significativo a cui gli operatori guardano comunque. Sì, tra l'altro anche su questo è intervenuto Marchionne, che ha detto il declassamento di Fitch non è una sorpresa. Chiudiamo con i titoli minori, forse non ho dato oltre l'automatica Ansaldo CTS più 3,23, Campari più 2%, Banco Popolare comunque più 2,80, Generali più 2, Snam Rete Gas più 2, Terna appunto più 1,70 come Mediobanca. Tra i minori, dicevo, e migliori e peggiori in assoluto, CHL oggi ha guadagnato quasi il 40%. Eh sì, ha ottenuto l'autorizzazione a distribuire all'ingrosso medicinali per uso umano. Fa acquisti online, no? Sì, fa commercio elettronico, insomma, un bel colpo che è stato festeggiato sia da CHL sia dai fortunati che magari avevano in portafoglio il titolo. Infatti, Full Six più 21,60, Prima Industria più 11,90. Fronte opposto invece per Alcatel-Lucent meno 7,92%,

Tu sei ridicolo, immagino io, sei la bocca che parla e basta, ma il cervello è un optional, per te la crisi è solo una notizia, ma qui nel mondo reale sta andando tutto a gambe all'aria, non è proprio così il messaggio. Grazie per la sollecitazione, cerchiamo di parlare della crisi anche nel mondo reale dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni per la seconda parte di Focus Economia. E allora, per quello che riguarda chi si fosse appena messo in collegamento, ricordo che ci siamo occupati del fondo europeo che Germania salva stati, fondo europeo salva stati che Germania e Francia a questo punto vorrebbero addirittura aumentare quanto a dotazione e portarla a 2.000 miliardi di euro, ipotesi circolate oggi che però hanno fatto andare bene le borse, soprattutto i titoli bancari, quindi soprattutto Milano, più 2% con Intesa San Paolo più 7,30% e Unicredit più 5,20%. È chiusa anche l'inchiesta, l'approfondimento sull'inchiesta della magistratura nei confronti di Barclays e Unicredit Broncos, e l'abbiamo appena spiegato, un giro, una triangolazione o quadriangolazione che serviva a, secondo l'accusa, evitare di pagare le tasse sugli interessi e invece trasformare questi interessi in dividendi con tassazione più bassa e più agevolata. Adesso ci occupiamo del tema greco, ma anche di quanto sta succedendo a Francoforte. È in corso infatti il passaggio di consegne tra Jean-Claude Trichet, attuale ancora numero uno della Banca Centrale Europea, e Mario Draghi, che ufficialmente si insedierà il 1° novembre. Draghi sarà il terzo presidente da quando esiste l'euro, dopo Wim Duisenberg e appunto Jean-Claude Trichet. Proteste quando è arrivato nel pomeriggio Trichet, manifestanti con gli striscioni game over della finanza davanti alla sede della Banca Centrale Europea. Il primo a prendere la parola è stato, per salutare Trichet, è stato Valéry Giscard d'Estaing, ex presidente della Repubblica Francese. Sentiamo questo passaggio. Nous sommes venus ici exprimer à Jean-Claude Trichet. Ci troviamo qui per esprimere a Jean-Claude Trichet il nostro affetto e la nostra stima. Nel momento in cui si conclude il suo mandato di 8 anni, non rinnovabile, alla guida della Banca Centrale Europea. Rendo omaggio alla sua azione a servizio dell'euro, portata avanti con prudenza e determinazione. Chi avrebbe potuto far meglio sul fronte della stabilità dei prezzi? Chi, tra tutte le voci critiche, avrebbe potuto pretendere un risultato migliore? La Banca Centrale Europea ha compiuto nel corso del suo mandato 18 interventi sui tassi, 9 al rialzo e 9 al ribasso. È il segno di una gestione prudente ed equilibrata. Sfortunatamente sono accaduti 2 eventi inattesi che hanno turbato il contesto generale: la crisi dei subprime negli Stati Uniti e, più recentemente, le conseguenze della gestione lassista dei conti pubblici di diversi stati europei e il deterioramento della situazione in Europa. Il tutto aggravato dalla frenesia speculativa degli operatori dei mercati. I grandi media, e in particolare la stampa finanziaria anglosassone, hanno gridato alla fine dell'euro, facendo in questo modo la felicità della speculazione. I grandi media, e notamente la presse finanziaria anglosassone, hanno embouché il loro portavoce per annunciare la crisi dell'euro, facendo così il bonheur della speculazione. Valéry Giscard d'Estaing, che proprio nella coda di questo intervento che abbiamo fatto sentire accusa esplicitamente il mondo anglosassone, la finanza anglosassone, i media anglosassoni di aver giocato, buttato benzina sul fuoco per interessi speculativi. E poi, sempre nelle celebrazioni, nel passaggio di consegne tra Jean-Claude Trichet e Mario Draghi, è intervenuto chiaramente anche il futuro presidente, tra pochi giorni, della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che ha detto nel suo intervento Jean-Claude Trichet si è trovato ad affrontare il compito e il periodo più difficile dalla sua creazione, dalla creazione della Banca Centrale Europea. E durante la crisi è stato il primo e il più veloce ad agire. Ora, è indubbio che Jean-Claude Trichet abbia gestito il periodo più difficile dal 2008 in poi. Mi auguro che per Draghi, mi auguro che abbia ragione Draghi, cioè che sia stato veramente il periodo più difficile e non ne arrivino altri. E poi una cosa, fatemela dire, io capisco che è il momento, insomma, anche formalmente si saluta un presidente della Banca Centrale Europea, per carità. Però Jean-Claude Trichet noi l'abbiamo criticato più volte, non ho nessun problema a ricordarlo, un po' perché la Banca Centrale Europea alzò i tassi di interesse a luglio del 2008 e dopo tre mesi crollava il mondo conosciuto, perché è un po' perché, e questo spiega anche cosa ha fatto nel 2008, perché la Banca Centrale Europea a noi è sempre sembrata un po' troppo ossessionata dall'ossessione tedesca dell'inflazione, sempre sta inflazione, e poi abbiamo scoperto che l'inflazione era l'ultimo dei nostri problemi. Vabbè. Poco fa è intervenuta, sì, inflazione, quindi aumento dei tassi per controllare l'inflazione, finché poi il mondo è crollato e anche la BCE si è accorta che forse l'inflazione non era il problema o il grande problema. E poi sempre un po' grigio in questi suoi interventi, sempre molto, molto tedesco. A proposito di Germania, poco fa Angela Merkel, il cancelliere tedesco, ha detto la crisi deve essere l'occasione per rafforzare l'Europa. E vabbè. E un cambio dei trattati europei non è da escludersi, non è un tabù. E poi ha aggiunto Angela Merkel, se vediamo la crisi come un'opportunità, dobbiamo approfittarne e usare metodi non convenzionali. Cioè, che la Germania dica di usare metodi non convenzionali, cioè, e poi cosa sono i metodi non convenzionali? Boh, l'atomica, che è il metodo non convenzionale? Cioè, le armi non convenzionali, i metodi non convenzionali, se sono condivisi dai paesi dell'euro, sono convenzionali, e se no non so come chiamarli. Bah. Metodi non convenzionali. Allora, mentre ringrazio per averci raggiunto in studio l'iperattivo Vittorio D'Aroldo oggi, buonasera Vittorio, buonasera sono 24 ore perché tu segui la Grecia e oggi sta succedendo di tutto, siamo a 25 feriti ad Atene in questo momento, addirittura una pistola rubata a un poliziotto aggredito ed è rubato la pistola, è il primo giorno dei due giorni di sciopero ad Atene, però per buttare così un po' di contrasto, mentre ad Atene si sciopera, controllori di volo, musei, scuole, dipendenti pubblici, fisco, medici, insegnanti, marinai, tassisti, giornalisti, tutto chiuso, anche perché qua la Grecia ha portato l'IVA a un 13% in più, dal 10 al 23%, pensate un po' che cosa è successo da noi per un punto percentuale, lì 13 punti percentuali, la riduzione degli stipendi per gli impiegati sarà del 60%, e qui... Immaginate cosa capiterebbe da noi se obbligassi il pubblico impiego a ridurre lo stipendio del 60%. Beh, oggi la banca d'affari Credit Suisse se ne è uscita con un rapporto su come è distribuita la ricchezza a livello mondiale e ha scoperto una cosa secondo me devastante, cioè che i milionari in Europa sono aumentati nell'ultimo anno più che negli Stati Uniti, e io che avevo capito che l'Europa fosse in crisi, alcuni scrivono e c'è anche la Russia, ho capito, ma insomma i milionari più milionari come crescita in Europa che negli Stati Uniti. Allora sentiamo questa scheda. Le dimensioni della torta crescono a vista d'occhio, ma la distribuzione delle fette è sempre più diseguale. È il messaggio che si può leggere nei numeri dell'annuale rapporto sulla ricchezza globale elaborato da Credit Suisse. L'1% della popolazione più ricca, ossia 45 milioni di persone adulte, possiede oggi 90.000 miliardi di dollari, 30.000 miliardi in più del 2010 e il 38,5% della ricchezza totale. Per contro, i 3 miliardi e 54 milioni di persone della fascia più povera si spartiscono appena 7.600 miliardi di dollari, 600 miliardi in meno di un anno fa e appena il 3,3% della ricchezza globale. In uno scenario che, a dispetto della crisi, ha visto un sensibile aumento della ricchezza privata globale, salita da 195 a 231 mila miliardi di dollari, la distanza tra il pianeta del benessere e quello della povertà appare in continua crescita. Una tendenza che, verosimilmente, è destinata a proseguire nei prossimi 5 anni, quando la ricchezza globale aumenterà di ben il 50%, ma di nuovo, prevalentemente, a beneficio delle fasce medio-alte. A livello geografico, gli Stati Uniti rimangono il paese che possiede la quota di ricchezza mondiale più ampia, seguiti dal Giappone. Gli incrementi maggiori si registrano tuttavia in paesi come India, Brasile e ovviamente Cina, dove i milionari in dollari hanno superato per la prima volta il numero di 1 milione. Molto più lente invece le dinamiche del vecchio continente, che conserva però una situazione invidiabile. Nell'Unione Europea risiedono il 37,2% dei paperoni mondiali e Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia continuano ad occupare dalla terza alla sesta posizione per numero di milionari. Andiamo bene, proprio bene. Eh sì, insomma, noi restiamo, in tante classifiche scendiamo, ma sul numero di milionari restiamo al sesto posto al mondo. Traffico e poi la Grecia, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, si conferma la classifica, Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia vanno dal terzo, non in questo ordine, Germania, Gran Bretagna, Francia e Italia vanno dal terzo al sesto posto al mondo come paesi dove ci sono il maggior numero di milionari. Non c'è niente di male, però aumentano e qui non si capisce, si impoverisce la classe media e aumentano i milionari, c'è qualcosa che non torna. La Grecia, dove in questo momento non oso pensare che vita possono fare i milionari, che ci sono tanti anche in Grecia, visto il nero che ha la Grecia, vista l'assenza, diciamo, di un controllo fiscale e quant'altro. Ma insomma, il centro di Atene è come un campo di battaglia in questo momento, piazza Sintagma, 50.000 manifestanti, scontri, 25 arresti, una pistola rubata a un poliziotto, sciopero di 2 giorni. Vittorio Darold, questo sciopero ha un obiettivo, se vogliamo, ancora più preciso degli altri, perché domani si vota ad Atene. Esattamente, cioè il tentativo dei gruppi che stanno cercando appunto di alzare la tensione sociale è quella di far saltare la manovra che domani si vota, cioè far saltare gli equilibri politici che sono molto fragili, lo ricordiamo, perché il governo Papandreou ha solo 4 voti di maggioranza e quindi, se dovesse salire ulteriormente la tensione, il Partito Socialista, che oggi ha il governo e che chiede vanamente da mesi al Partito Conservatore di Neodemocrazia di in qualche modo fare un governo di emergenza, di unità nazionale, si troverebbe in difficoltà. Questo è il tentativo, cioè far saltare il fragile equilibrio, perché se la Grecia non approva queste manovre volute dalla Troica, la Germania avrà facile gioco negli appuntamenti che, come un mosaico, si stanno dipanando in questa settimana che è cruciale: venerdì Eurogruppo, sabato Ecofin e domenica il Consiglio degli Stati, che deve ratificare se la Grecia ha fatto quello che gli viene chiesto dalla Troica e soprattutto dare più fondi al Fondo Salva Stati. E su questo, quindi, il tentativo, diciamo, per far capire anche perché di questo sciopero, è di far saltare l'approvazione del piano, visto che ha solo 4 deputati di scarto la maggioranza, giusto? Sì, esattamente. Il tentativo è questo, perché se non passa questa manovra non arrivano innanzitutto gli 8 miliardi della sesta tranche, perché ricordiamo la Grecia ha avuto da maggio del 2010 un primo salvataggio. Pensate che a gennaio Papandreou era al forum di Davos e chiese 8 miliardi per salvare il paese, gli furono rifiutati. A maggio gliene vennero concessi di corsa 110. Se gliel'avessero dati subito, già questo avrebbe... Sì, questa, lasciatemelo dire, è la grossa responsabilità della miopia tedesca. Nel senso che, lo abbiamo detto molte volte, ma non c'è più dubbio, se il caso greco si fosse risolto, arginato, risanato a marzo del 2010, quando è scoppiato, e quando la Germania, per fare la prima della classe, ha dovuto mostrare che con la matita rossa il rigore è quello tedesco, che la Grecia non va salvata, beh, se si fosse intervenuto allora, non saremmo intervenuti con un paziente, diciamo, moribondo, ma con un paziente malato, ma ancora non moribondo, e quindi ci costava un po' di meno, qualche centinaio di miliardi in meno. Su questo io non ho mai sentito però una grande autocritica in Germania, perché ricordiamo chi bloccò il salvataggio greco a marzo-aprile dell'anno scorso, scusatemi, con la tesi che gli stati possono anche fallire se hanno sbagliato, salvo poi accorgersi che se falliva la Grecia saltavano per aria le banche tedesche e francesi, allora forse il fallimento andava meno bene, dando gli aiuti col contagocce. Insomma, nella vita o la fai fallire sta Grecia e allora però ti becchi anche 30-40 miliardi di svalutazioni di banche, sono 50 in tutto tra francesi e tedesche, e auguri, oppure la salvi fin da subito, che ci costa anche un po' di meno, visto che la politica europea mi sembra più la politica, diciamo, del Reno qua, Reno-Rodano, cioè Francia e Germania. Su questo la Germania ha delle grossissime responsabilità. Un'ultima domanda per te, invece, Vittorio, e riguarda i greci. Allora, hanno truccato i conti, vivono in uno stato in cui l'evasione è più alta perfino dell'Italia, in cui il pubblico impiego ha tutele enormi, è tutto quello che vogliamo dire, in cui non si paga una ricevuta manco a Natale. Però io capisco questo piano che ha l'obiettivo di salvare anche le banche tedesche e francesi. Non vorrei che però salvate le banche tedesche e francesi uccidessimo definitivamente la Grecia. Cioè, quando tu chiedi una riduzione del 60% degli stipendi a 30.000 impiegati, quando tu porti l'IVA al 43%, era al 23%, era al 10%, cioè 13 punti di IVA in una botta sola, che vuol dire che l'inflazione schizza e non compri più un bene. Cioè, va bene salvare l'Europa e le banche europee, ma qua non si rischia di buttare via tutto, oltre che... Guarda, oggi c'è stato un bel intervento su Le Monde di un padre dell'Europa, l'ex presidente della Commissione europea Jacques Delors, che è stato molto critico sulla ricetta che è stata usata appunto per salvare la Grecia in questo momento, sia del Fondo Monetario che dell'Europa. E lui dice: insegniamo ai paesi in difficoltà a morire guariti. Cioè, in 3 anni la Grecia ha perso il 10% del PIL. Scusami, ti ho perso su questo? Cioè, il nostro Jacques Delors, che è appunto un po' il padre dell'attuale situazione europea, in un intervento su Le Monde è stato molto critico sulla ricetta, sì, certo, usata, perché lui ha detto proprio morire guariti, cioè aiutiamo i paesi a morire guariti. Perché... Sì, che è la critica che venne mossa a suo tempo anche all'Argentina, che in realtà poi con l'Argentina abbiamo visto che il Fondo Monetario ha operato meglio. No, ma io non voglio dire che sia sbagliato, cioè chi sbaglia paga, altrimenti qua sbracchiamo tutti. Dico semplicemente attenzione, perché se la cura per il malato è una cura che ti bombarda di chemioterapia, ti riduce in ginocchio, poi è anche difficile risollevarsi, perché avrai salvato i crediti delle banche tedesche e francesi con la Grecia, però poi la Grecia non esiste più. Lo dico perché nella vita non è che esista solo la finanza e le banche, che tra l'altro se li sono comprati loro quei bot, mica li abbiamo obbligati noi a comprarsi i bot greci. La verità è che il debito greco è 357 miliardi di euro. L'attuale PIL è 280, è 5 volte quello che l'Argentina aveva fatto. Cioè l'Argentina ha fatto un debito, di cui poi ha fatto default, di 90 miliardi. Cioè qui stiamo parlando anche di una estrema liquidità, di una capacità delle banche europee. Che hanno finanziato il debito greco finché praticamente potevano. Beh, inutile girarci attorno. Poi improvvisamente si rendono conto che il soggetto a cui davano i soldi non era così affidabile. E perché gliele hai date? Ci verrebbe da domandare alle banche tedesche e francesi in primo luogo, ma il programma finisce qui. Grazie Vittorio Darold. Un'informazione di servizio invece: la classifica dei milionari nei paesi è anche sulla nostra pagina di Facebook, quindi la pagina di Focus Economia su Facebook. Da Sebastiano Berrisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.